tres, que tres, taking me a whiskey trip. Eccoci, mercoledì 6 novembre e ancora qui con Whiskey Trip, ore 10. Iniziamo un'altra serata insieme con qui su Radio Default con almeno un paio d'ore di buona musica ad ascoltare, tra blues e jazz. Come stai questa sera, Antonio? Io sto che guarda, aspetta, perché mi fanno strani gesti sempre da dietro. Io ho questo vetro, sai, che è il mio tormento dal primo giorno che sono entrato qua dentro. Fai gesti molto equivoci, è anche molto divertente vederti da dietro questo vetro, Paolo. Puoi entrare e dircelo, vieni, se capisce. Vabbè, comunque, dicevamo, speriamo ci sentite. Se non ci sentite vi risalutiamo dopo, non ci facciamo problemi, siamo molto alla mano. E come sto? Sto benone, Alessandro, carico pure stasera. Abbiamo tante belle cosette per i nostri amici. Io il famoso vetro, il famoso stanza, la stanza degli specchi di Radio Default con i suoi messaggi in codice. Sì, perché è giusto pure, abbiamo tutto il nostro diritto di essere pure un po' criptici. E quindi vabbè, mentre indaghiamo su gesti e segnali dal vetro, io inizierei con una cosa un po' frizzante, così ci scaldiamo subito. Parliamo di Paolo Ferrara, che è un grandissimo percussionista. Ha fatto questo pezzo insieme ai suoi amici nel 1975. È una traccia vagamente blues, ovviamente la percussione a farla da soprano. E vabbè, ci scaldiamo e torniamo tra poco qui su Radio Default. Benissimo, allora buon ascolto. Thank you. Paolo Ferrara, mentre arriva un gustoso piatto di pasta. Assaggio, perché non dire gustoso, cioè vediamo, perché per Whisky Trip fa informazione di qualità. Vediamo la prova. Grazie ragazzi, Paolo, buonissima Ferrara. Grazie Alessia. E questo è quello che io chiamerei un bel inizio di puntata. Paolo Ferrara, percussion blues e la pasta. E dopo Paolo Ferrara, che con il quale hai aperto tu, Antonio, questa nostra puntata di questa sera, dopo il percussionista passo a proporvi, a farvi ascoltare un chitarrista questa volta, che è Albert William Lee, uno scintillante chitarrista inglese tra country, rhythm and blues e rockabilly, una miscela veramente bella di stili musicali. Il pezzo si chiama Country Boy. Qualche piccola notizia su Albert Lee: è un chitarrista attivo sin da giovanissimo, inizia a suonare la chitarra a 16 anni nel 1959. E si fa le ossa, impara a suonare la chitarra, le sue prime band nella scena londinese del rhythm and blues degli anni 60. È un chitarrista che vanta una lunga lista di prestigiose collaborazioni. Parliamo di Eric Clapton, a Jerry Lee Lewis, grandi nomi veramente, a Emmylou Harris, Bo Diddley, Jackson Brown. Una lista importante, di collaborazioni importanti. Allora, il pezzo è molto bello, è frizzante come dicevi tu prima, anche questo. E allora, Albert Lee, stasera playlist minerale, è molto bello questa definizione. Albert Lee su Radio Default, Country Boy. I may look like a city slicker, shining up through my shoes. Underneath I'm just a cotton picker, picking out a mess of food. Show me where I start, find a horse and cart. I'm just a country boy. In a fire, but I'd rather be a hog caller who's shooing cat on the stile. Read, exchange and mark, find a horse and cart. I'm just a country boy. Thank you. Che traccia, bravo gente, sto sound un po' Boy Luke, complimenti. Forte. Complimenti, sì. Ragazzi. Vabbè, stai cenando, ti facciamo cenare, fai finta, guarda, grazie, senza che seconda, sì. Beh, la tua seconda cena io voglio allietarla, dato che fra i nomi che facevi prima descrivendo il brano antecedente, detto antecedente, hai citato Bo Diddley. E casualmente, cioè, sta cosa è bellissima. Cioè, noi ormai facciamo le playlist senza... Cioè, chi se conosce fuori da Whiskey Trip, io e Alessandro. Cioè, proprio... Però le cose tornano di settimana in settimana. E io, infatti, qua c'avevo proprio pronto Bo Diddley con Roadrunner. E ce lo ascoltiamo mentre finiamo la pasta buonissima con l'anduia di Radio Default. Tornati in diretta qui da Radio Default. Allora, Bo Diddley, questo era Bo Diddley, la sua chitarra, andando avanti in questo viaggio del blues. Il prossimo musicista, il prossimo pezzo è un grande bluesman, uno dei padri del pianoforte blues, e parlo di Jimmy Yancey, nato nel 1894, quindi parliamo di uno della prima generazione del blues, la generazione di Santicchio. 1894, è nato in una famiglia di musicisti di Chicago, padre chitarrista, fratello maggiore pianista. Jimmy impara a cantare e a suonare da bambino negli show itineranti che attraversavano a quel tempo le città dell'America. Molto, molto bello, molto affascinante questo mondo dell'America rurale, delle origini del blues. Personalmente lo trovo molto affascinante. E una particolarità, il nostro Jimmy Yancey durante la prima guerra mondiale fu anche un bravo giocatore di baseball. Dai. Giocava nel team della Chicago All-Americans, nella Negro League Baseball. È vero, perché era differenziato. Sì, c'era una lega che riuniva squadre con giocatori, atleti, tutti gli atleti neri. C'era ancora questa differenziazione, discriminazione razziale a quel tempo. E comunque Jimmy era anche un ottimo pianista, un pianista di riferimento per tutto il blues a seguire. Ma più forte come pianista o come giocatore di baseball? Questo non sarebbe... Non hai visto, prima di portarlo a Whiskey Trip, non hai visto una partita, non qualcosa? Non ho visto le sue partite. Mannaggia. Non lo so, a vederlo come pianista è eccezionale, non so, forse se fosse stato così bravo anche nel baseball. Per farci perdonare, prossima puntata interamente dedicata al baseball. Vedremo i momenti salienti del mondo del baseball. Mercoledì prossimo alle 22, non mancate. Baseball trip. E allora, questa è la sua Yancey Special. Ci ascoltiamo questo suo pezzo. Thank you. Paura questo pianista Alessandro, quando vabbè sappiamo che i pianisti sono il tuo campo e me ne hai fatti conoscere tanti dall'inizio di Whisky Trip e un grazie pure, guarda, mi sento di dartelo anche a nome degli ascoltatori, poi magari no, però stasera ci saranno molti altri pianisti, wow nella parte jazz. Ok, allora aspettate che la tecnologia rema contro stasera, non è nostra amica. In cerca del prossimo in pezzo. Cerca dopo Jimmy Yancey, famoso giocatore di football nella Lega negli anni del 15-18 e prossimo musicista, oh, l'abbiamo ripescato, lui, non poteva essere altri che lui. Beh, ci viene a trovare spesso da ste parti, ci viene, no? A trovare spesso, però invece di lui, dato che ci viene a trovare spesso, questo pezzo un po' particolare, sì molto particolare, perché non mi ricordo chi, qualcuno disse, poi magari se siete interessati ve lo diremo la prossima settimana, tipo un po' come fanno le soluzioni a pagina 46. Qualcuno disse che Jimmy Page, Led Zeppelin ovviamente, è stato il più grande ladro della, il più grande ladro bianco della musica nera. È probabile che sia, siano andate così le cose. Beh, abbiamo parlato spesso dello stretto legame tra i generi, insomma, come si è evoluto il tutto, però questa qua insomma ricorda, cioè non ricorda, insomma credo sia pure un po' voluto, ma non sappiamo bene la storia, quindi non vogliamo nemmeno dirvi bugie, però ditecelo voi cosa vi ricorda questa qua, che è You Need Love di Muddy Waters. Got yawning and I got funny. Baby, you look so sweet and cunning. Baby, way down inside. Woman, you need love. Woman, you need love. You got to have some love. I'm gonna give you some love. I know you need love. Just got to have love. Got to have some love. You make me feel so good. You make me feel alright. You make me feel so good. Oh, you make me feel alright. You make me feel so good. You make me feel alright. She's so nice, she's so nice. She's so nice, she's so nice. She's so nice, she's so nice. She's so nice, she's so nice. You are fretting and I am petting. Lot of good things, oh, you ain't getting. Baby, way down inside. inside. Woman, you need love. I know you need love. You got to have some love. Ain't fooling, you need schooling. Baby, you know you need cooling. Woman, way down inside. Woman, you need love. You got to have some love. She got to have some love. She got to have some love. Allora, cosa ti ricordava Alessandro? Mi ricordava, sì, una canzone dei Led Zeppelin. Una in particolare? Non te voglio mettere in difficoltà. No, non è particolare. Una, non ti ricordava... No, voglio dare indizi. Quel sapore di Led Zeppelin un po' anni 70. Gino Paoli. Anche Gino Paoli, Gino Paoli, grandissimo pianista pure Gino Paoli, quindi no. La verità, dillo, cioè, no. Non lo so. Grande. No. Non ce la faccia convinta. Un grande interprete della canzone. Un grande interprete della canzone. Anche non solo interprete, anche cantautore. Vogliamo autore. Passare Gino Paoli da qui a mezzanotte. Ma comunque, ecco, stiamo seguendo delle associazioni di idee. Allora, Gino Paoli recentemente, proprio recentemente, mi fa venire in mente, ha collaborato con Danilo Rea, che è un grande pianista italiano, un grande. Hanno fatto dei dischi insieme. Dai. E un tour. Quindi. Ma quanti anni diciamo Gino Paoli? Credo almeno 80. Vabbè, prossima puntata, allora, baseball e Gino Paoli. Baseball a suon di Gino Paoli, bellissimo, va bene. Proseguiamo. Con una richiesta, un blues. Grande successo anche questa sera, grande successo di ascolti. E ringraziamo veramente i nostri fan che ci seguono. Siete un po' troppi in questo momento. Magari se un paio si tolgono, andiamo più veloci. Sì, magari si intasa la linea. Però sì. Siamo felici del nostro successo. Pure le telefonate, ci scusiamo se non riuscite a prendere subito la linea. Ci seguono i nostri ascoltatori. Ok, e vabbè, la prossima, a proposito di ascoltatori, chissà se è in linea questa persona, però abbiamo proprio un classicone della musica italiana, sì, che ci rientra però comunque a pieno diritto nel blues. Un pezzo, vabbè, che non lo presentiamo nemmeno, però parlando di Battisti, che è stato, cioè, mo, che se ne dica, musicista incredibile, questo pezzo che adesso ascoltiamo, cioè un blues sentitissimo e indubbiamente il nostro Lucio ce l'aveva dentro. A inizio carriera, diciamo, ho ascoltato pure sue cose interessantissime, cioè addirittura ci sono album progressive di Battisti, questo la gente non lo sa perché ascolta Roda, Canzone del Sole, però non se va a scovare queste cose. Che, come si dice in questi casi, ha spaziato molto. Ha spaziato e è spaziale pure. E a proposito pure di Led Zeppelin, pensa, Battisti fu il primo. C'è una traccia che purtroppo la memoria mi manca il titolo di questa canzone, ma dove Battisti, appena erano usciti Led Zeppelin, ha provato a portare quel sound in Italia. Cioè, c'è sto brano che sembra di Led Zeppelin, solo che tutti i gridolini, wow, così ste cose non rendevano in italiano, però musicalmente, quindi è stato uno, cioè un musicista che passiamo per quanto guardava oltre i confini, guardava nazionali. Oltre, per quanto questa traccia è ben conosciuta da tutti, credo siamo contenti che musicisti di questo calibro

Lucio Battisti, Il tempo di morire, qui su Whisky Trip, anche Lucio... Canzone dedicata ad Andreotti. Cosa veri? Anche Lucio si è ritagliato uno spazio all'interno della nostra trasmissione, che spazia appunto tra strade, corsi, scenari differenti del blues e del jazz a 360 gradi. Anche 370 ci vogliamo 390, rovinare, ci vogliamo 391, rovinare. 392. Aggiudicato. Quindi, adesso eravamo in pausa. È tempo di andare avanti, ma non ci siamo preparati, cioè ammettiamo pure i nostri limiti, il nostro problema col procrastinare. Come tutti i grandi jazzisti, anche noi improvvisiamo splendidamente, no, meno splendidamente, però vabbè, sta improvvisando in questo momento un tip tap Alessandro, è un peccato non possiate vederlo. Ok, però allora c'è da dire una cosa. Sono arrivati diversi sms di ascoltatori che, ecco, si è aperto un caso, direi. Caso Battisti. Caso Lucio. Sono arrivati molti sms di ascoltatori che ci chiedono: amici di Whisky Trip, come mai Lucio Battisti è nella vostra puntata di questa sera? E sì, dunque è vero che non è un nome che di solito rientra in quelli che del blues che siamo di solito abituati ad ascoltare tra i bluesmen, ma questo pezzo che era Il tempo di morire è proprio scritto su un riff che ricorda molto da vicino, veramente è un riff blues, e ci è sembrato che anche le parole della canzone e l'umore del pezzo andavano in questa direzione. Molto, molto. E noi di Whisky Trip siamo aperti alle sperimentazioni e anche ai percorsi laterali che la musica blues e jazz attraversa. Ecco perché abbiamo proposto anche questo pezzo, Il tempo di morire, di Lucio Battisti. Ok, detto ciò, proseguiamo. Te la ricordi, lei? Lei ci è venuta a trovare una delle primissime puntate di Whisky Trip, sì. Se non proprio la prima. La prima, tra le origini del blues. Lei è Sister Rosetta. Grandissima chitarrista elettrica. Stazza da Big Mama, voce potente, grandissima capacità interpretativa. È una al top, insomma. Sister Rosetta era una del filone blues. Che questa era proprio pessima. Talmente pessima che sto ridendo proprio di del cuore. Filone delle origini del blues. Sì, era pessima. La famosa Rosetta del filone, va bene, e ce la spariamo perché guarda, mi viene da ridere, non riuscirei più a dire niente di serio. E vabbè, allora ce la ascoltiamo con una splendida versione live di This Train. Thank you. Drinkers. It's a clean train, this train. You know this train. Don't pull no jokers, this train. This train. Don't pull no jokers, this train. Jokers, no tobacco chewers, and no cigar smokers, because this train is a clean train. You know this train. Let's ride the train. This train is on the way to glory. This train. Eccoci qui e salutiamo che si, ci scrive, si è connessa adesso, ci segue sempre, grande, grande Sara che ci segue sempre, e Paco, Paco dall'Argentina, immancabile, e anche lui. No, stasera non, non c'è, non c'è perché c'aveva, c'aveva un impegno. Non, non lo so a questo punto se, se lo confermiamo come ascoltatore number one. Ho capito, allora. E quindi, quindi non è più il numero uno. No, è stato scavalcato da Sara che l'argentino non sarà l'Argentina, però ci segue con più frequenza di Pago a questo punto. Pago, siamo un po' risentiti con te. Vabbè, discuteremo faccia a faccia. Sì, e invece un grande abbraccio a Sara che ci segue. Allora, entriamo nella seconda parte della nostra puntata. E una puntata alternativa dopo Lucio Battisti, la parentesi di Lucio Battisti. E ci piace avventurarci in sentieri meno battuti, sentieri musicali meno battuti, e in arrivo c'è una sequenza di tre pezzi. Si tratta di tre pianisti, di tre pianisti americani e della scena contemporanea, tra jazz e musica new age, una scena particolare che miscela la musica jazz, smooth jazz, cocktail lounge alle nuove tendenze della musica new age. Ora abbiamo un sacco di fischi in sottofondo che sì, comunque fanno new age. Salutiamo pure Pindaro. Salutiamo anche Pindaro, salutiamo anche Riccardino, salutiamo tutti i nostri amici ascoltatori. Sì, questo stile tra jazz e new age, molto sognante, molto da atmosfere molto da sogno, molto delicate, comunque anche piuttosto raffinate, qualcosa di diverso dal solito. Allora, loro sono Scott Cossu, che sembra viene da Cagliari, ma invece è americano. Scott Cossu, Jim Chappell e Philip Harberg, tre pianisti di questa scena, di pezzi molto emozionanti. Il primo, Song for a Blind Man di Cossu, dall'album Still Moments del 1980, e Jim Chappell con Blue Razor e Words Over Water di Aeberg. Sono tre pezzi veramente particolari, devo dire. Ecco, non vogliamo vantarci, ma non si trovano facilmente questi pezzi. Sono pezzi piuttosto rari, e allora ve li proponiamo qui su Radio Default e vi auguriamo buona serata e un buon ascolto. Thank you. Eccoci tornati e dopo questi tre pianisti di questo genere tra il jazz e la new age, a volte insolito, e una parentesi degli ascolti che di solito facciamo qui a Whiskey Trip, e invece adesso credo speriamo che vi siano piaciuti, che abbiate gradito. Adesso credo che torniamo a qualcosa di un pochino più convenzionale, almeno per quanto se riguarda stavate facendo yoga, adesso vi facciamo invece ballare. No, proprio ballare no, però rimaniamo comunque sul pianoforte. A questo punto ormai stasera siamo partiti con questo piano e piano piano ci chiudiamo. Ho detto troppi piano, vabbè. E c'era un aneddoto da dire sul nostro caro amico, sì. Allora guarda, io farei che intanto c'ho una sua traccetta un po' groove, un po' yeah, sì, che dura poco. E intanto se riconoscete chi è, vi aspettiamo fra 2 minuti e poi torneremo ancora con lui, va c'è bene? Una fornitura di Pandori. Di Pandori. No, c'eravamo le uova di Pasqua. Uova di Pasqua. Uova di Pasqua qui. No, perché abbiamo ancora quelle, ti ricordi? Quando abbiamo fatto lo special di Pasqua. Ammazza, oh, che ricaccio. Bisogna. Vabbè. Insomma, consumarne, non si sprecaci. No, infatti no. E va bene. Diciamo questa, proprio lo diciamo dopo che cos'è. Va bene, a tra poco. Allora, per chi non l'avesse riconosciuto, era il nostro caro amico pianista Dave Brubeck, che è invitato, se vuole venire a partecipare alla puntata di mercoledì sul baseball, può passare. No, non è vero, perché ci ha lasciato pure da poco, è morto nel 2012 lui, del mi 2012, ricordo, sì, l'anno scorso, e mannaggia, però ci ha lasciato tante belle cose. diciamo prima un aneddoto su di lui, per l'appunto, cioè che era un macello il nostro amico Dave, perché quando si stava diplomando alla Alessandro College of the Pacific di Stockton, in California. California, conosco bene io quelle parti, si sa. E vabbè, fu convinto innanzitutto dai familiari per iscriversi, ma aveva delle difficoltà ad accettare il mondo della musica professionale. Poi però rivelò una spiccata confidenza con il contrappunto, l'armonia. Ma quando stava alla fine del tutto, stava, pensa Alessandro, per essere espulso perché si scoprì che non sapeva leggere gli spartiti. Cioè, questa cosa è allucinante. Queste sono le cose che fanno venire i brividi alla pelle, perché insomma, Alessandro da pianista, discorso tecnico, come caspita faceva? Allora, è senz'altro molto difficile farsi strada in un conservatorio, in una istituzione dove si studia a livello professionale la musica senza conoscere a fondo la teoria musicale e saperla leggere e scrivere. Quindi in questi casi, quindi copiava. Era un genio, era fatta copiava. Questo va bene, a parte gli scherzi, cioè... magari copiava, ma sicuramente quando non ci sono competenze tecniche, in questi casi è il genio che sopperisce, però sopperisce, ecco. Il talento, il genio, il genio, cioè la musica è piena di casi di gente che non sapeva nemmeno come era fatto un pentagramma, vero, che ne so, a partire, vero, da Hendrix, però giustamente facevano le proprie composizioni. È strano in questo caso, essendo lui un musicista appartenente a un genere molto più severo, che richiede insomma tecnica ben precisa. Sì, forse ha imparato in seguito. Vabbè, dice anche che comunque è diventato non solo pianista ma anche compositore. Quindi vabbè, era proprio destino. Salutiamo altri amici dal nostro vetro. E dice però che alla fine è stato promosso con la solenne promessa, cioè gli hanno detto: guarda, noi ti promuoviamo, però ci devi giurare che non insegnerai mai musica. Lui è uscito, la prima cosa che ha fatto, dillo te, è andare a insegnare all'università. No. Non era manco uno di parola, no, scherzo, no, vabbè. Però c'è, cioè, chi dice queste cose, vedi poi che è brutta la burocrazia, perché cioè io magari potrei prendere lezioni di pianoforte da Dave Brubeck. Non so tu. Mi hai fatto venire in mente che anch'io ho sentito di una persona che si è diplomato al conservatorio in clarinetto ad orecchio. Dai, ma questo sempre in California o in zona? No, in Italia, me lo raccontava un amico italiano. Dai, un Dave Brubeck del clarinetto, quindi. Sì. Quindi, sì. Vabbè, ben venga, aspettiamo i tuoi dischi, Dave Brubeck del clarinetto e va bene. Quindi, ti è proprio a dispetto della commissione d'esame di questo conservatorio, io vi farei ascoltare di The Bright Groove, che questa l'ha registrata col Dave Brubeck Quartet, che vede l'immenso Paul Desmond all'alto sax, Jim Wright al contrabbasso e altro grandissimo John Morello alla batteria e ovviamente Dave Brubeck al piano. E quindi, ragazzi, su Radio Default, The Bright Groove. Thank you. Conservatorio, nateci voi, non serve a sto punto, l'abbiamo deciso. Mi dispiace Alessandro che tu ci hai dedicato tanto tempo nella tua vita. Potevi nascere dei Brubeck. California. Nascevi in California, cioè avevi belle spiagge. Poi, boh, so bere queste belle spiagge in California, non lo so. Chissà. Non lo so, prossima puntata a questo punto anche baseball, California e Gino Paoli. Accordati così, venduta. E va bene, siamo penso stasera al momento dei saluti. Anche questa sera siamo arrivati al momento dei saluti e dopo quest'altra bella puntata. Non te mando via però Alessandro, se almeno ci regali, non so, qualcosa, o un classico, un qualcosa per sì, dare la buonanotte sì, ai sì. nostri amici. Allora per il momento dei saluti, per concludere, augurarvi una buona serata oppure una buona notte, sì, direi che ci sta bene uno di quei nomi intramontabili, uno di quei nomi intramontabili. E allora ascoltiamo il sassofono di sua santità John Coltrane. Gioco capito. Come hai detto sassofono, quando parli di Coltrane dici sassofono in un modo proprio... John Coltrane dal disco Soul Train del 1958 insieme a Red Garland, Paul Chambers, Art Taylor alla batteria. E questa è You Say You Care, e noi invece vi diciamo buonanotte, grazie per averci ascoltato e vi diamo appuntamento al prossimo mercoledì, sempre qui su Radio Default. E allora, buon ascolto, You Say You Care. Alla settimana prossima. Thank you. Huh? Tell me you're not sure of the wall. Like a little girl behind the wall. There's your light. Yeah, Felix is running. Clock. Yeah, it all buffs well. I don't know, I'm going to try some remotes, you know, because these Ludwigs, they're nice, but I'm going to try the remotes. Someone on the road is down for a drink. They're all in Vaseline, are you? In the night as well. Yeah, but... St. John. Thank you.